avait des yeux d'opale qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé. Oggi parleremo del fatto se sia più o meno lecito parlare del Papa al di fuori del contesto del suo alto e importante ruolo. Lo facciamo perché, lo sapete, fa parte della cronaca, è uscito Habemus Papam, l'ultimo film di Nanni Moretti, che ha come appunto soggetto un papa, un suo papa immaginario che in sé comunque ha dei tratti che ricordano gli ultimi due o tre papi perlomeno. Ci fu subito un critico che scrisse sulle pagine del giornale della CEI: boicottiamo questo film, non lo andiamo a vedere perché è un insulto appunto per il Papa e per tutti i cattolici. E questo naturalmente fu il più grande e bel regalo che uno potesse fare a un regista e produttore di film, lanciare subito un anatema. Salvatore Izzo inconsapevolmente dà ragione di parlare questa mattina del film di Nanni Moretti. Perché ne dà ragione? Dà ragione perché naturalmente su questo si apre una polemica. Risponde il giorno dopo Camillo Langone su Libero: io non dico boicottiamo, non lo andrò a vedere. Una sua vibrante presa di posizione, dicendo che non vale nemmeno la pena di andarlo a vedere. Poi vedo che oggi la CEI ritorna un po' sui suoi passi, perlomeno rettifica la posizione espressa così veementemente sul proprio giornale dal critico Izzo, dicendo: ma non è un film che insulta nessuno, è un film complesso ma è segnato da superficialità, è un film su cui bisognava riflettere. Noi questa mattina vogliamo riflettere su questo film, non tanto sul film di Moretti, che qualcuno può averlo visto, può non averlo visto, può essere interessante, ma vale la pena o è coerentemente utile e indispensabile aprire la polemica su un film che tratta del Papa, naturalmente non in termini canonici, non in termini di osservanza, perché ce ne sono stati già tanti, già parecchi. Oggi vi faremo una rassegna di tutte le volte che un Papa è entrato in un film, raccontato secondo la sensibilità, secondo i modelli estetici, secondo la visione della vita di registi, di autori, che probabilmente lasceranno tracce nella storia del cinema molto più profonde di quella che lascerà il film di Nanni Moretti. Your brothers and sisters, non somos gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimi, ac reverendissimi. Problemi con la fede. 800240024, il tema è chiaro: abbiate o non abbiate visto il film di Nanni Moretti, oggi aiutatemi a riflettere su quanto sia lecito comunque parlare del Papa in un momento storico, in un tratto della civiltà e dell'umanità in cui sia libero e lecito esprimere il pensiero su ogni fattispecie umana e sovrumana che ci capita di attraversare con la nostra esperienza. Ma visto che vogliamo con cognizione di causa affrontare l'argomento in tutte le sue sfaccettature, Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno. Sansonna, come nostro emissario, è andato ieri a vedere il film di Nanni Moretti. Questo velocissimo trailer già entra nel clima di un film in cui c'è un papa con delle profonde crisi che vada allo psicanalista. Questo in fondo il senso del film. Vediamo se ci riesci a riassumere il tuo punto di vista riguardo a questo film e poi andiamo avanti. L'urlo disperato che si è intrasentito nel trailer è quello appunto di Michel Piccoli Melville, che è designato papa dal conclave, si dimette dal suo ruolo, non riesce, non si sente adeguato. Questa è un po' la sinossi del film. Un film che recupera questo interprete straordinario, che è una sorta di pianeta in movimento, che ha questo volto che aristocratico, come diceva lui, diceva che in Italia non ci sono, sono tutti attori piccolo borghesi, quasi tutti, cioè non c'è nessuno che ha un volto aristocratico come il suo. Lui porta in sé tutte le fantasie da fascino di scrittura borghesia di Buñuel agli estremi paradossali di Ferreri, e li presta a questo ruolo meraviglioso. Le parti più belle del film sono quelle in cui lui fugge dal Vaticano e smarrito si trascina con sé questo passato extradiegetico. Poi, sinceramente, a me quello che è poco affascinato del film sono un po' le metafore, le allegorie morettiane. Qui in questo film poi si incrociano i suoi soliti riferimenti allo sport. Organizza questo surreale incontro di pallavolo nel conclave, però non c'è la fantasia nera e cupa di, appunto, dei Ferreri o anche lo stesso l'onirismo, quello figurativo molto interessante di Fellini. C'è una sorta di vacuità di fondo, di superficialità di fondo, che non si addentra né nei temi della psicanalisi né in quelli religiosi. La sintesi, merita questo film il regalo di un anatema come gli ha fatto appunto il critico dell'Avvenire? Secondo me non incide su nulla questo film, non scardina nulla, è molto, affronta molto genericamente dei temi ampi, ma insomma senza arrivare al cuore del problema. 800 24 00 24. Dobbiamo fare qualcosa subito, per questo abbiamo scelto lei, perché lei è il più bravo. Che condanna, me lo dicono sempre tutti. Di questa difficoltà ne ha parlato con qualcuno? No, con nessuno. E che lavoro fa? Cosa faccio? Sì. Abbiamo già un'ascoltatrice, Emiliana, buongiorno. Buongiorno. Eccomi. Io chiamavo per dire che non vedo onestamente alcun motivo per il quale non si debba parlare del Papa. No, il tema è se ne possa parlare in maniera dissacratoria, non trattandolo semplicemente unicamente per quello che è, quindi il vicario di Cristo in terra, il pontefice, colui che crea appunto un tramite tra l'assoluto, tra il divino e l'umano, ma si possa analizzarne anche gli aspetti umani, come fa Nanni Moretti in chiave psicoanalitica. Esatto, perché è comunque un uomo. E a tal proposito credo sia anche importante dire che, proprio per il ruolo che svolge, come ha scritto ieri un teologo sostenuto da diversi teologi, pare fortemente che sia gay. Vabbè, ed questo è importante, perché è importante la posizione della Chiesa. Questo teologo, questo teologo non so dove lo abbia letto, comunque adesso c'entra fino a un certo punto. Mi fa sorridere perché è una notizia di ieri. Sì, ma notizia. Ha scritto un libro, ora non so il nome. No, è uscito un libro sulla gaiezza di alcuni sacerdoti nell'ambito della capitale del circolo romano, e quindi c'entra poco comunque. Fermiamoci al film di Moretti, non perché non voglia deludere, però se parliamo, scusi, parlare adesso dei preti gay quando stiamo parlando di un film. Non sto parlando del prete gay, sto parlando dell'importanza dell'uomo oltre che Papa, perché ovviamente condiziona tutto il mondo esterno, condiziona noi e condiziona il mondo. Ho capito. La sua visione delle cose, no? Sì, però dal punto di vista di un osservante, il Papa è un ruolo, è una funzione, e quindi l'uomo in realtà viene assorbito, scompare da questa funzione, e quindi poi sa, il punto di vista del credente è un punto di vista rispettabile, ma è limitato a quello del credente. Il non credente può tenere conto comunque della sensibilità di tutti i credenti, ma può comunque, secondo me, parlare anche, elaborare, vedere in chiave romanzesca, in chiave introspettiva, retrospettiva come fa Moretti anche la figura del Papa, ma in questo caso, sa, la fattispecie è stato giusto, è stato intelligente, è stato saggio sollevare subito una polemica a priori su un film che in realtà, poi come l'ha visto Sanson, non presenta nessun lato, ma nemmeno denigratorio, nemmeno dissacratorio della figura del Papa. Ecco, questo era il punto. Ma lei l'ha visto il film? Io, sa, purtroppo non l'ho visto il film, però esprime il suo parere dicendo... Sì. Non si debba rappresentare il Papa come uomo, perché è prima uomo che Papa. Beh, no, veramente prima Papa, ma, scusi, dipende dal punto di vista. Allora, per il credente è Papa e quindi è una funzione, vabbè, un ruolo. Però, è anche uomo, ma l'uomo... Uomo, sì, ma un uomo quando assume un ruolo di così vitale e profonda importanza, l'aspetto umano, resistendo, esistendo e continuando a permanere nella sua profonda e intoccabile dignità, scompare di fronte all'aspetto del ruolo, dell'ufficio, capisce? Il credente vede il Papa, vede nel Papa, vede una figura, non vede l'aspetto umano. Vabbè, andiamo avanti con Riccardo. Riccardo? Sì, ci sono. Buongiorno. Sì. Complimenti per la sua trasmissione, che non seguo spesso, ma comunque mi sembra molto bella. E niente, volevo dire che io sono un ammiratore di Moretti sin da giovane, e ho visto quasi tutti i suoi film, no? Praticamente tutti. Questo l'ha visto? No, questo non l'ho visto. Quindi? Non lo vedo per principio. Ma quindi lei è della teoria di Camillo Langone, non lo vado nemmeno a vedere. Non lo vado nemmeno a vedere perché non merita. Beh, uno dovrebbe vederla una cosa prima di dire che non merita, secondo me. Come? Uno prima di dare un giudizio, dire questa cosa non merita, dovrebbe vederla e poi dire no, è vero, non merita. Perché fare un film sul Papa? Perché no? Dire... Ma invece l'idea era geniale, no? L'idea di partenza è... Giuseppe Sanson. L'idea di partenza di un Papa problematico, appunto anche con il suo lato umano, che appunto si eclissa dal suo ruolo, è geniale. È un Papa che fa chiamare in Vaticano una sorta di Wolf, di risolutore, che poi è interpretato dallo stesso Moretti col suo narcisismo monteverdino, che viene a psicanalizzarlo davanti a tutto il conclave, perché non può esserci solitudine, perché l'inconscio non esiste, però comunque cercano di ricorrere alla scienza della psicanalisi per risolvere questa crisi papale. È geniale. Il punto è che non affonda né nell'essenza della psicanalisi né nell'essenza della religione. Usa, distilla grandi temi molto superficiali, secondo me non è, l'idea di partenza è geniale. Infatti poi alla fine, come vedi, il giudizio ponderato e ufficiale della CEI è proprio questo. Non è un film offensivo, non offende nessuno, passato il momento dei clamori, delle prese di posizione personale, la posizione ufficiale alla fine della CEI è questa. È un film superficiale, è un film che in fondo sì, tocca un tema che sarebbe stato anche interessante osservarlo con in mano anche la torcia pronta a dar fuoco al rogo, ma non vale nemmeno la pena di mettere nessuno sul rogo, perché è solo lambito. I momenti, sì, esatto, i momenti più emozionanti sono quelli di silenzio assoluto, in cui c'è Piccoli, che è questo occhio sfinito da ultimo Wojtyla, no? Vaga, quasi novantenne per Prati. Però tu mi confermi che la forza di questo film è un grande interprete. Sì, sì, Piccoli si trascina dietro un passato che è il Novecento occidentale, ecco questo. Sei il mio mito, ti pare che ti frego? Ma lo dici a tutti, sei il mio mito. Ma non è vero, ma chiunque viene qui dici, guarda, sono brividi, ma hai fatto emozione. Non lo dico dal 97. Se ci fossi tu la televisione sarebbe diversa, a tutti. Non te l'ho mai detto. Sei volte a settimana. Ma non te l'ho mai detto. Ecco, poi chiudiamo... diciamo l'analisi del film morettiano, vorrei andare avanti e parlare del Papa nella storia del cinema, così svisceriamo e diamo motivi di paragone. Questo film, già abbiamo notato, notevolmente intriso di paraculaggine promozionale, perché il fatto che oggi ne stiamo a parlare, che qualcuno lo abbia attaccato, è stato millantato probabilmente con un film chissà cosa andasse a toccare. La trama del film è stata anticipata sull'Espresso, la Malcolm Pagani, Moretti ha fatto finta ad arrabbiarsi perché lui non vuole le trame sappiano prima. Quanto è intriso di questo melassoso, sdolcinato e vellutato spirito che potremmo definire il fazzismo? Sì, appunto, quella superficialità di fondo, quella benevolenza con tutti, anche il fatto che il conclave sia rappresentato come questa sorta di cocoon, di ospizio, di vescovi che hanno una sorta di ingenuità bambina, che è la stessa ingenuità bambina del Moretti che organizza l'ennesimo evento sportivo, cioè questa sorta di torneo di pallavolo, tutto rimane in questa eterna superficialità che non affonda, che non ci racconta il nostro tempo. Ci sono anche delle sovrapposizioni di ruoli tra appunto lo spettacolo di Fazio e il film di Moretti. Sì, mi sembra che l'autore di Fazio è anche l'autore del film. Sì, è Francesco Piccolo. Sì, è una sorta di pensiero dominante, insomma, che rimane abbastanza sospeso, abbastanza... Sentiamo subito qualche telefonata. Cinzia. Buongiorno. Sì. Guardi, io non ho visto ancora il film, lo andrò a vedere questo fine settimana, ma conoscendo Moretti, amando Moretti come lo amo, mi aspettavo esattamente quello che state dicendo, cioè un atteggiamento forse più infantilmente affettuoso che non certamente dissacratorio e critico. Però io volevo intervenire, prima mi ero messa in lista per dire questa cosa, la Chiesa, io non sono credente ma sono cresciuta diciamo frequentando scuole di suore eccetera, quindi... Conterraneo e concittadino, la cultura cattolica, anche se uno poi dice di non abbracciarlo altro, comunque ci contamina nei modi d'essere, nelle nostre relazioni. Sicuramente, tra l'altro io mi considero comunque nei principi assolutamente cristiana, quindi, quindi questo per dire che nel loro stesso catechismo ci insegnano che Gesù ha scelto Pietro. Perché ha scelto Pietro? Perché Pietro era il peccatore, Pietro era quello che aveva una famiglia, Pietro era quello che l'ha tradito e che era il dubbioso. Quindi perché non esplorare l'aspetto umano del Papa, visto che Gesù stesso, tra tutti quanti i suoi... Però esploriamolo fino in fondo. Cioè... Ha scelto proprio quello... No, bene, quello certo, per carità, però dico, perché la Chiesa si rifiuta... No, la Chiesa non si è rifiutata, guardi, devo correggere, sennò siamo superficiali anche noi. C'è stato un primo atteggiamento nella libertà di esprimere le opinioni di qualcuno che ha detto boicottiamo, non lo vado a vedere altro. Poi la posizione ufficiale della CEI questa mattina, la vedo nei giornali, dice ma a noi non dà nessun fastidio, non ci preoccupa e non ci turba, solo che è stato superficiale. Quindi non è che dice non se ne può parlare, cioè sì, già dal momento che sollevava questo grossissimo problema fra l'esistenza dell'inconscio e la figura di un papa, poteva essere un pochino più profondo. Hanno fatto un sorrisino, come hanno detto, vabbè bambino, ti sei divertito, bravo, continua a divertirti, a noi non ci tocchi. Antonio. Sì. Prego. Pronto. Sì. Lei ha visto il film? Sì, l'ho visto ieri sera. A dire la verità non è che a me Moretti piaccia tanto. Comunque, sono stato invitato dai miei amici ad andare a vederlo, sono andato a vederlo, però ho trovato solo un film noioso e niente di più, insomma, non aggiunge niente, né toglie niente a quello che era la storia del Vaticano, della Chiesa in generale. Comunque lei ci è andato sull'onda lunga, diciamo, della polemica, perché non andarci visto no, che se ne parla? No, ma nemmeno per quello, perché appunto io spero, ero sicuro che fosse una polemica montata, insomma. Cioè, Vabbè, a lei non è piaciuto, ne prendiamo atto. Francesco. Sì, sono Francesco, chiamo da Cosenza. Senta, io vorrei esprimere il mio parere anche... riferendo a quello che è il mondo in cui io vivo. Io sono un cattolico praticante, sono un farmacista, faccio l'informatore scientifico, quindi mi occupo di marketing. È chiaro che la commissione è netta fra quella che è un discorso di fede e quello che poi sono anche le operazioni di marketing che seguono a un certo punto questo discorso. Quindi lei la inserisce un'operazione di marketing? In parte sì, cioè nel senso che la posizione di stamane dei vescovi è sicuramente... tendente a smontare quello che potrebbe diventare quasi una polemica montata. Io ho portato un esempio prima alla sua collaboratrice e parlavo dell'ultima tentazione di Cristo di Scorsese. Sì, esattamente. Che io vidi quando ero all'università e che in realtà risultò al tempo, per l'opinione di molti religiosi, un film scandalo. Oggi l'ultima tentazione di Cristo rientra fra i film che spesso vengono proiettati nei cineforum cattolici, che è la dimostrazione che in realtà molto spesso le operazioni di polemica servono ad attirare attenzioni ci vuole altro che un film per scalfire, ecco, diciamo, le certezze di chi ha fede. Lei che la fede la vive in maniera concreta, reale, non superficiale, non ostentata, mi sembra di aver capito, quindi è una testimonianza quotidiana. Dice, ma ci vuole altro a mettere in crisi comunque un'istituzione come quella della Chiesa o comunque la figura come quella di un Papa che un filmetto. Ho riassunto bene? Tra l'altro, se io vorrei aggiungere una sola cosa, che Il Papa che noi abbiamo attualmente, che tra altre cose è anche un teologo di vecchia data, ha sottolineato un po' di tempo fa proprio l'idea della differenza netta fra religione e fede, cioè in realtà il concetto religioso, che è quello gerarchico nella Chiesa, spesso viene visto dall'esterno come la parte più influente, quando in realtà per i cristiani dovrebbe essere la fede predominante, per cui il concetto di fede viene scalfito da lunghe riflessioni. Sì, però diciamo una delle parti essenziali del credo è anche la Chiesa, una cattolica, apostolica, romana, quindi fa parte anche di tutto questo, diciamo, se no si fanno quelle distinzioni. Guarda, io sono l'ultimo e il più terrificante dei peccatori, non ho titolo per parlare, però le dico sinceramente, non è sforzo, dice, io sì, ho fede, però della Chiesa non me ne importa, i preti sono tutti dei tipacci. No, se uno è cristiano fino in fondo non può dire questo, almeno questo è il mio punto di vista. Sansonna, facciamo così, diamo velocemente le informazioni della borsa e riprendiamo, chiudiamo con il film di Moretti, se no diventa una discussione, e come ci eravamo prefissi, da dopo le informazioni della borsa in poi faremo una carrellata di tutti i film che hanno parlato di Papa. Quindi vedremo, per rafforzare la nostra tesi, quanto già se ne è molto parlato e quanto nessuna certezza è crollata, nessuna burra c'è stata e soprattutto nessuno poi si è tanto impressionato. A tra un istante. Quando on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Il nostro cuore soffre con quello dei poveri e degli umili. Umili. Umili, santità, umili, accento. Umili che accenderanno il regno dai cieli. Ma che accenderanno? Accederanno al regno dei cieli. Accederanno. Accederanno nei regni dei cieli. Se hanno pazienza. Ecco, ma io ce l'ho pazienza. Io ho pazienza, ma lei oggi non ha studiato niente. Non è vero, sì. Io ho studiato, ma non ho ripassato. Sì, non ha ripassato. E domani, allora, il discorso lo faccio io, Magari, sì. Ma purtroppo lo devo fare io. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti, santità. Allora, in questo momento... In questo momento di tensione e di grave minacce per la pace mondiale, noi credimmo... Ma che credimmo? Credimmo, crediamo. Santità mio, crediamo. Allora, nel 1980 ci fu un film prodotto da Mario Orfini che rappresenta l'esordio di Renzo Arbore nella regia cinematografica, Il Papocchio. Questo film, che al tempo suscitò qualche polemica, presenta un Papa, abbiamo sentito chiaramente Papa Wojtyła, che non sapendo bene l'italiano ha bisogno di un insegnante di italiano che gli prepari i discorsi. È un'immagine tenera, divertente, per nulla dissacrante, ma tocca nel profondo comunque gli stessi temi che oggi sembrano per la prima volta essere portati all'attenzione delle cronache. Quindi facciamo intanto un'analisi di questo precedente, mi sembra il più calzante. Se sbaglio mi corrigerete, si parte da quella frase che disse Wojtyła appena si insediò, e qui Manfred Freiberger, che era questo caratterista tedesco che ha fatto Il Soldato Tedesco in quasi sosia, diciamo. Sì, mille film, poi ha fatto Il Ruolo della Vita ed è morto poco dopo la fine delle riprese. Nel Papocchio, appunto, in realtà si toccano con la leggerezza della banda dell'altra domenica dei temi cardine, cioè il Papa come capo della massima rappresentazione occidentale, che è la Chiesa Cattolica, che vedendo Arbore che sorseggia una birra e che ne fa la reclame, capisce l'importanza della pubblicità e della rappresentazione televisiva e decide di realizzare una TV all'interno del Vaticano. Quindi comunque con leggerezza, con un tocco sottile, si toccavano invece dei elementi cardine della Chiesa che si andava rinnovando. Poi appunto sbarcano i vari... Dunque, fu sequestrato per vilipendio la regione cattolica. Sì, temibile pretore dell'Aquila intervenne, lo stoppò e comunque poi si riprese. Donato Massimo Bartolomei lo sequestrò, ma decadde a seguito di un'amnistia, però il sequestro, sì, leggo su Wikipedia. Sì, sì, sì. Però danneggiò un po' il film. Tra l'altro questo film si inizia con Vuoi dire che fa la Ciclette, che è una scena poi adesso ripresa dal film di Moretti, ma utilizzata anche da Giuseppe Ferrara nel Politico, molto, molto ferrato, I banchieri di Dio, cioè questo fare la Ciclette in questo mondo in moto del Vaticano, questo correre da fermi, insomma è una metafora che viene ripresa sempre, però di cui fu l'inventore genialmente Arbore. E qui c'è un Benigni che fa un monologo lunghissimo, Benigni ancora punk sdrucito, molto, molto eversivo, ma anche molto leggero, prima di diventare un po' quell'umorismo da capogita che ha preso adesso fra la svendita di Dante, quella... che si trova di fronte alla finestra del discorso del Papa, e con la folla fuori si affaccia a lui, lo prendono per il Papa Petroliniano, no? Passa davanti, c'è il boato della folla, poi gioca con questo, c'è Benigni. Comunque al tempo, parliamo degli anni 80, comunque di anni ne sono passati, ebbe qualche concreto segno di dispiacere, diciamo, da parte più che altro dei difensori ufficiali, quelli sono più realisti del re stesso. Poi alla fine la Chiesa di queste cose le lascia scorrere, perché sa che il tempo è dalla sua parte comunque. Certo, ma la Chiesa gesuiticamente ha sempre inglobato, infatti Buñuel e Bresson, insomma, grandi, Buñuel diceva grazie a Dio sono ateo, insomma un ateo molto problematico, ma pur sempre un ateo, è edito dalla San Paolo Audiovisivi, cioè comunque è stato un... Ha fatto un film sul Cammino di Santiago che è memorabile. La Via Lattea, in cui c'è uno che un pellegrino che sogna che il Papa venga fucilato, c'è questa scena in cui il Papa viene fucilato a un plotone di esecuzione, insomma, e la Chiesa lo apprezza. Andiamo avanti. Marchese Onofrio del Grillo, sei tu pronto a difendere... Anche tu sei pronto a difendere... La Santa Romana Chiesa e il tuo pontefice, se necessario, fino all'estremo sacrificio? Santità, se è necessario. Sandro, buongiorno. Buongiorno. Lei ricorda pure lei la scena del Marchese del Grillo, in cui il Papa, che è Paolo Stoppa, addirittura... per questo suo gentiluomo di corte, per cui aveva un debole, che sarà il responsabile dell'arresto da parte dei francesi del Papa, insomma, sempre un occhio benevolo alla fine. Sì, è bellissima, veramente, da questo questo amore da parte del Papa, poi alla fine ci fa una questione di vendetta. Guardi, purtroppo c'è una... diabolica volontà a non farla parlare, perché non si sente assolutamente nulla. Vediamo se riescono a recuperarla intanto con Giuseppe Sansonna, il Papa del Marchese del Grillo. Magnifico Paolo Stoppa, che presta il suo volto da usuraio bonario, in questo caso trasteverino, insomma, che ha questo rapporto con il Marchese Grillo, che gli fa addirittura lo scherzo di fingere che sia morto, facendo suonare a morte tutte le campane di Roma. E questo c'è l'abilità anche di Monicelli di creare questa figura papalina molto umana, molto sfumata, molto... Paradossalmente erano più eversivi questi film che anche se parlavano di papi molto lontani, ormai che sono passati alla storia. Diciamo, la cosa che un po' urta le coscienze, fa riflettere, è parlare dei papi viventi o molto recenti, di cui ancora la storia è vicina. Certo, erano papi fortemente intrisi di potere temporale, questi, però sicuramente fanno parte della storia della Chiesa, che porta fino all'oggi, insomma, comunque garantiscono una riflessione. Ecco, abbiamo ripreso Sandro. Sandro, sentiamo se adesso la sentiamo meglio. Eccomi qua. Sì, allora, adesso va bene. Sì, appunto, veramente è bellissima questa scena, dove si vede il Papa che addirittura burlone, un Papa umano, un Papa quasi umano, praticamente, invece la sua figura nel film di Moretti, che io non ho visto sinceramente, mi dà l'idea delle recensioni che abbiamo sentito di un Papa praticamente al di sopra delle possibilità, delle sue possibilità. Beh, è troppo depresso per avere persino voglia di scherzare. Un Papa esatto. Che scherza, che fa scherzi, è un Papa più che umano, è già l'apoteosi della dimensione umana, un uomo che ha voglia di scherzare, di ironizzare, è un uomo perfettamente realizzato, è un uomo che si nasconde, che ha paura, che è macerato, è un uomo che vive tutte le angosce terrazziere che Moretti appoggia nella figura del Papa. No, in questo caso è comprensibile, infatti lo spunto di partenza del film Moretti è, ripeto, geniale. Oggi un Papa ha effettivamente delle problematiche a capire qual è effettivamente il suo ruolo. All'epoca era il potere temporale che aveva in mano, gli garantiva una solidità, cioè sapeva che era il capo di un regno molto determinato, con un esercito, con tutto molto preciso, insomma. Oggi queste problematiche psicanalitiche ci potrebbero anche essere, bisogna andare a fondo, forse un po' più a fondo nel problema. Andiamo avanti. Tutta una vita fa finta di schiattà, mentre schiattavo di salute. E intanto mi dicevo, ma ci dovranno arrivare il conflitto di potere, ci dovranno arrivare al Papa di transizione, al Papa di pezza. E grazie a Dio è finita. Oh, bravi svizzeri, capitano, a queste due eminenze gli famo da una bella pettinata d'arboia. Tanto il cardinal decano muore da sé. Salvatemi, santità, non ve ne pentirete. Un'eminenza grigia vi serve sempre. Volentieri, ma io sono contrario alla pluralità. Io tendo all'assoluto. Devo far de testa mia, per cui devo tagliare la tua, fietto mio. Giuseppe Sansonno, un altro papa. Questo è il Santo Solio, ha preso da Signore e Signore Buonanotte. Qui c'è la grandezza fine dello storico romano, del grande regista dimenticato Luigi Magni, che racconta di questo Manfredi che si finge infermo per essere finalmente eletto dalle cospirazioni del perfido. Ecco, qui per esempio c'è il melliflo cardinale Mario Scaccia, che presta tutte le sue, la sua capacità di fini angherie a questo volto vescovile, insomma. E quindi c'era di fatto un tratteggiare, un creare ritratti del mondo ecclesiastico sicuramente più carichi di dettagli, di sfumature, rispetto ai bamboccioni un po' da cocoon, da ospizio che ha creato Moretti. Beh, erano gli anni 70 in cui anche il laicismo affondava su ragioni ben concrete, non c'erano situazioni sfumate in cui oggi anche il laico comunque deve sempre far vedere che lui sta anche dalla parte di quel... Cioè, allora erano ben definite le posizioni, quindi era una sorta di posizione storica complottistica che andava molto in voga in quel tempo. Stefano. Buongiorno. Eccomi. Niente, mi avete rubato tutto l'intervento. No, ma adesso è tutto suo il palcoscenico, può dire quello che vuole. Niente, io ricordavo appunto questo fantastico personaggio interpretato da Manfredi, di un cardinale che inscenava una malattia di lungo termine per farsi eleggere il Papa di transizione, e poi appena eletto sorgeva dal letto come un santo e mandava a morte tutti i cardinali che avevano ordito complotti alle sue spalle. Era una specie di escamotage da Filumena Marturano applicata appunto al Papa. C'era tutto lo stoicismo anche romano di questa, cioè c'era un'analisi antropologica molto forte, il disincanto anche di questi vescovi, di questa plebe romana. Diciamo c'erano delle radici culturali ben studiate, ben analizzate, ben rappresentate, d'accordo Stefano? Sì, sì. Quindi quando dicono oggi vescovi è un po' superficiale, in fondo dice, se volete proprio darci le martellate sulle gengive, almeno studiate, questo forse è il senso. Confermo, io sono pienamente d'accordo. Grazie, andiamo avanti con le informazioni del traffico e poi con la nostra carrellata di papi nella storia del cinema assieme a Giuseppe Sansonno. Quando on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. A volte il bisogno di confessarsi è irresistibile e noi dobbiamo cogliere il momento. A che cosa serve la confessione? Se io non mi pento. Dicono che tu sia un uomo pratico. Che cosa hai da perdere? Coraggio. Io ho tradito mia moglie. Continua, figliola. Ho tradito me stesso. Ho ucciso uomini. E di altri ho ordinato la morte. Ti prego, continua, figliola. Ah, è inutile. No, coraggio. Ho ucciso, ho ordinato di uccidere mio fratello. Mi aveva fatto uno scarpo. Ho ucciso la carne di mia madre. Ho ucciso la carne di mio padre. I tuoi peccati sono tremendi ed è giusto che tu ne soffra. Certo, esistono anche maniere drammatiche di rappresentare la figura del Papa, questo... Il boss della mafia che si confessa che ha ucciso il fratello un papa, Giuseppe Sansone. Questo è il Padrino, terzo atto del Padrino del 1990, ovvero gli americani che si occupano delle cose di casa nostra e tratteggiano Giovanni Paolo I, che è il suo brevissimo pontificato, che ha i tratti solidi, etici, antichi di Raff Vallone, che appunto confessa Al Pacino e ne sente tutta la carriera criminale. Qui si tratterà di Marcinkus, dello Ioro, c'è anche una scena in cui c'è un simile Andreotti, un simile Calvi appeso al ponte dei Frati Neri, tutto un po' frullato, tutto un po' di grana grossa a colpi d'accetta, però la figura qui del Papa, come lo vedono, del Papa etico, del Papa buono, come vista da Coppola, ha i tratti di Raffallone, cioè ha la solidità antica, ecco. Quindi rimane fortemente ancorato anche nella figura dell'interprete al suo ruolo. Sì. È un Papa senza dubbi, è un Papa che comunque sia, anche se toccato, lambito, in qualche maniera impossibilitato a essere immune a delle vicende di tipo legate alla cronaca, all'attualità di quei tempi, ai retropensieri, alle retroazioni che potevano esistere dietro l'istituzione Chiesa. Comunque un Papa che nel momento in cui amministra il sacramento, la penitenza, è sacerdote, è Papa, è perfettamente nel suo ruolo. Sì, immune alle nefandezze che palpitano nei sotterranei gidiani del Vaticano. 800 24 00 24, stiamo raccontando come è stato raccontato il Papa nella storia del cinema recente. Lo facciamo alla luce delle polemiche, che poi polemiche che hanno molto diviso anche il mondo cattolico, rispetto all'ultimo film Abemus Papam di Nanni Moretti, che parla di un Papa molto lacerato e molto pieno di conflitti, che ricorre a uno psicanalista, che è appunto Nanni Moretti, che gli fa appunto un setting di fronte a tutta la congregazione cardinale riuniti, in cui poi il Papa non può nemmeno parlare di se stesso, la sua vita, di sua madre, perché non è bello che il Papa ne parli. Quindi in questo c'è un paradosso. 800 24 00 24. Qui si chiede la pena di morte per due imputati che non hanno neanche confessato e fa ride. Tuttavia, nella relazione di Monsignor Marino, io leggo, e che leggo? Non stanno? Ah, eccoli qua. Leggo che Monti e Tognetti, nel corso dell'istruttoria, hanno tenuto un contegno tale da non lasciare dubbio alcuno sulla loro reità. Mica mi direte che fa ridere. Ma perché dovrebbe far ridere? Oh, vedo che se cominciamo a capire. Allora domanda, basta per condannarli a morte? Vorreste insinuare che non abbiamo prove sufficienti? Se sono queste è evidente che non ce l'avete. Ma facciamo conto che ce l'avete. Che cambia? Basta per condannarli a morte? Basta sì, basta e n'avanza. Ecco, qui più importante che la figura del Papa forse è la figura, diciamo, del difensore dei, sì, dei due risorgimentali che poi furono realmente giustiziati, che è rappresentato da Nino Manfredi. Qua è Nel nome del Papa Re. Sì, di Luigi Magni, siamo Monsignor Colombo da Priverno, incarnato da Manfredi. Quindi si racconta di quello che un attimo prima della breccia di Portapie, cioè anche la marcescenza dello Stato Pontificio viene descritta in tutte le sue sfumature. C'era una sorta di coraggio nel rivedere, nel rianalizzare, tra l'altro senza toni troppo didascali, cioè anche conservando il gusto anche della commedia, della grande recitazione, della grande messa in scena. C'era un'abilità e una documentazione molto forte. Qui che più che sul Papa è sulla possibilità che possa esistere una dialettica in un momento così critico in cui la Chiesa sta per perdere il suo potere temporale, che all'interno ci fosse già chi gettava lo sguardo oltre. Poteva sembrare, ma poi in realtà, alla luce degli ultimi documenti, come ci dice appunto il sommo Marco Pizzo, che spesso è nostro ospite, già anche il Papa era abbastanza ormai rassegnato al fatto che il mondo stava cambiando, e già sotto sotto cercava di fare in modo che fosse meno cruento possibile questo passaggio. E invece nel film di Moretti il cambiamento diventa la canzone di Mercedes Sosa, Cambia, Todo Cambia, in cui tutti ballano un po'. Boris, lo sceneggiato, la fiction rende benissimo tutta questa cifra del linguaggio italiano attuale, cioè la locura, il momento in cui tutti ballano, che c'è in ogni fiction, in ogni momento, cioè l'abbandono, tutto è vacuo, tutto è puramente... Andiamo avanti con Michele, un ascoltatore. Michele. Sì, buongiorno. Molto brevemente, volevo fare solo un accenno al film di Moretti che ho visto e che... secondo me non parla tanto della figura del Papa. Il Papa secondo me è uno strumento per parlare di quelle che poi possono essere le responsabilità. D'altra parte la figura stessa di Piccolini nel film, che da principio non ha anche dai bookmakers non è indicato come uno dei più quotati, d'improvviso diventa... Infatti noi abbiamo Sansonna, che è uno dei pochi che in Italia ci capisce di cinema, se no non l'avremmo lui qua. Avremmo chiamato Marzullo o qualcuno del genere. Dicevo, la figura del Papa d'improvviso diventa, appunto, la figura di Piccolini d'improvviso diventa quella del Santo Padre, ed è secondo me proprio un film sulle responsabilità. E poi io sono d'accordo. Scusi, ma se non se le prende il Papa le responsabilità, mi dica al mondo, infatti, chi mai dovrebbe prendersene? E infatti è proprio questo, secondo me, alla fine, il messaggio di un film che tutto sommato è uno dei più deboli, secondo me, di Moretti, nonostante io sia un grande fan, soprattutto alla prim'ora. Dopodiché, riguardo il discorso che voi stavate intraprendendo sulla figura del Papa, proprio nella possibilità che venga analizzata, probabilmente ancora più interessante, e lo vorrei fare oggi, è quello di prendere Micromega, che pare abbia fatto in Italia il più grosso assalto alla figura del Papa in questi giorni. Che sarebbe Micromega? Sì. Lo sdrucciolo, lo sdrucciolo, è entrato lo sdrucciolo. Sì. E niente, secondo me è vabbè, normale. Guarda, io secondo me è lecito che chi ce l'abbia col Papa si esprima in maniera critica verso il Papa, chi voglia difendere il Papa difende il Papa, nel rispetto comunque delle sensibilità di tutti, se possibile. Se non è possibile, ognuno poi difenderà le proprie sensibilità con le proprie armi e con i propri uomini in campo. Ma noi andiamo avanti. Auguriamoci che una copia di questa lettera non arrivi ai cardinali. Vorrei vedere la faccia di Casaroli. Vabbè, io te li raccomando, i cardinali. Come se non lo sapessero che senza soldi non si fa niente, nemmeno la carità. Sì, certo. Non siamo noi a dettare le leggi che accrescono il denaro. Però, vedi, non per questo dobbiamo applicarle tutte. Sì. Ecco, raccontami, dimmi un po' delle lettere di garanzia a Calvi. Non hanno alcun valore giuridico. Considerale soltanto un atto di amicizia verso Calvi. Vuoi prendere un tè con me? Sì. Ecco, Giuseppe Sansone, qui siamo nel vero film attualità. Ne abbiamo parlato tante volte. È stato un momento in cui il cinema italiano era molto avanti anche rispetto al racconto del quotidiano fatto dai giornalisti. La televisione non aveva ancora questa forza, questa intrepidezza di andare sulla realtà. Ma in questo punto ci siamo, però. In realtà questo è un film di anni più recenti, perché questo è un film del 2002, dei I banchieri di Dio di Giuseppe Ferrara, che riprende quella storia dei primi anni Ottanta, riprende l'assassinio di Calvi, è un film attesi, molto politico, molto. Però il vero momento di culto è questa immagine di Wojtyla di spalle che appunto lentamente, affannosamente si accascia su questa ciclette, mentre appare Marcinkus, il temibile Marcinkus con tanto di sigaro, che ha la faccia strepitosa dell'androide di Blade Runner, Ridley Scott, Philip Dick, ovvero Rutger Hauer, che insomma e il culto vero di questo film è qui, cioè il fascino vero e l'incrocio fra queste figure. Poi il film è un po' troppo teorematico, un po' troppo su questo genere di argomenti, forse sarebbe meglio fare dei documentari dettagliati, però invece sì, è come quei libri con la copertina nera che escono ormai in serie, che raccontano sempre i segreti di qualcosa. Però anche qui comunque la figura del Papa è stata toccata. C'è stata questa sorta di entrata nel recinto del sacro, e si è analizzato anche alla luce poi della cronaca, dell'attualità. Ida, lo vedi un po' bene qua? No, guarda se vedi quello che vedo io, se ho le visioni, guarda un po'. Gesù! Ma che? Che succede? È che... Mamma! Anna! Di sotto c'è il Papa che è venuto a trovare papà. Lo fammi entrare. C'è il Papa? Il Papa! Lo fammi entrare. Stronzo, alla chiamà! Lo fammi entrare, sì, lo fammi entrare. Amaro! Stavolta l'ho castigato. Ma che mi sento meglio. Ma giù di sotto e aspetta. Che bomba faccio in finestra col Papa. La faccio? Ma dove la faccio? Qua, in finestra. Io mi sono detto quale, perché questa non è una finestra. Gli piace la carbonara, sì. Prepara la segna, Marò. Bomba faccio. Perché io e il Papa stavo così. Siamo arrivati in coda, alla siamo riusciti a mandarli tutti, però questa volta è una delle poche volte che abbiamo mandato tutti i film. Ecco, qua di cosa stiamo parlando? Questo è Qualamano, qui ci sono Montesano e Carotenuto, che sono, rappresentano forse il lato popolaresco romano della prossimità, della voglia di prossimità col grande padre, col Papa. Insomma, questo dare del tuo al Papa, questa contiguità è resa bene. Appunto, Montesano vincerà questa scommessa con Carotenuto perché ha effettivamente un'amicizia nata col Papa, che è Philippe Leroy, che è il volto antico, il regale di Philippe Leroy. Questo non voleva dimostrare nulla, non voleva portare nessuna tesi, però abbiamo fatto vedere che in realtà negli ultimi 20 anni, 25 anni di papi al cinema ce ne sono stati tanti. Nessuno per questo ha rinnegato la fede, nessuna cupola di San Pietro è crollata, nessun fulmine è uscito dalle nubi che sono dischiuse nel cielo, e quindi noi abbiamo vissuto tranquillamente lo stesso. A domani. Alors tous deux, on est parti dans tourbillon la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés.